venerdì ogni rientro per ogni palcoscenico la nostra sigla in scena, la rubrica Calza al Sipario sui 103.1. Evviva, confermo, è l'ottava edizione, la stagione teatrale 2023-2024. Il mio rapporto con i numeri e con la memoria non è sempre così lucido, in questo caso invece alleluia, abbiamo preso la stagione che apre per Agorà, con noi alla direzione artistica Alessandro Amato Mattiniero, al quale do il buongiorno. Buongiorno, bentornato Alessandro. Buongiorno William, buongiorno, grazie a te per averci invitato ancora una volta a presentare la stagione. Agorà per me è un appuntamento fisso, da quando c'è il Breakfast Club ogni stagione è stata presentata. Noi abbiamo poi anche un appuntamento che vede tra virgolette una seconda edizione che è stata già dall'anno scorso portata all'interno dei comuni dell'Unione Reno-Galliera, curata da uno staff che dà una continuità ma che vediamo un po' come seconda edizione. Ci puoi spiegare un po' questa continuità, Alessandro? Poi entreremo nel programma. Esatto, sì. Uno dei sottotitoli della stagione nella scorsa edizione appunto era Evoluzione di continuità, perché la stagione è nata nel 2016 con la direzione artistica di Elena Di Gioia, che appunto nel 2021 è passata all'assessorato alla cultura nella città di Bologna. E quindi c'è stato questo diciamo passaggio di consegna, per cui ho preso la direzione del progetto e nel ricostruire insomma un equilibrio ho chiamato alcuni sguardi ad accompagnarmi nella costruzione della stagione, che sono Anna Madori, Nicola Borghesi, Lorenzo Donati e Rosalba Ruggeri, che insomma sono degli sguardi, persone che sono sempre state vicine alla stagione e con cui stiamo creando delle progettualità per arricchire, per appunto avere questa evoluzione in continuità con quella che era la storia e le caratteristiche di Agorà, che è una stagione che lega 8 comuni, appunto 8 piccoli comuni, 4 hanno i teatri, 4 non hanno i teatri, e quindi bisogna sempre inventarsi qualcosa per costruire una stagione, presentare un cartellone unico. Perché la mia affezione, oltre che per la qualità, per quanto riguarda Agorà, perché come ben sapete per me il territorio di pianura ha un posto particolare nel mio cuore, e portare la provincia nostra pianeggiante verso nord di Bologna, a volte sottovalutata, e mettere un riflettore che per ognuno dà possibilità di palcoscenico, per me è veramente motivo di grande attenzione, e anche per quello che non nascondo questa mia vicinanza ad Agorà. Quindi le sedi si confermano, immagino, dalle tue parole, e oltretutto vedo che saranno illuminate da lampi, scintille e tracce dei nostri tempi. Sono queste un po' le parole d'ordine, Alessandro? Esatto, sì, questo è un pochino perché Agorà appunto non è un teatro, ma è una stagione ospitata da diversi teatri, diversi luoghi, quindi noi appariamo, compariamo, montiamo il nostro teatro e poi ci spostiamo per la data successiva in un altro teatro, in un altro comune. Quest'anno saremo ad esempio in una quadreria ad Argelato, saremo all'area di riequilibrio ecologico La Bisana, e ogni appunto compariamo, come portiamo uno squarcio di luce e poi ci spostiamo in un altro luogo. Io ricordo che La Bisana è a Castel d'Argile, così per dare anche informazioni logistiche per quanto riguarda, ma ne parleremo, avremo modo insomma per quanto riguarda l'ottava stagione di Agorà. Possiamo mettere un pochino di musica? Puoi restare a fare co-conduzione con me? Intanto certo, okay, io ti ringrazio tanto. Loro sono gli Young Disciples, Talking Loud, la label ufficiale di Gil Peterson, e ci propongono Move On. A tra poco, Agorà, ottava stagione. People lie to you, some crucify you, you wonder why you ask what did I do, a lesson well learned. Give your pain to Alessandro Amato alla direzione artistica di Agora. Io mi sono permesso di visionare anche un po' di immagini dai comunicati stampa e l'ho trovato anche in veste di capo cantiere. Ti ho visto che montavi un palcoscenico, che lavoravi anche in carpenteria edile oltre che alla direzione artistica, quindi è un direttore artistico anche vicino a quella che è una concretezza per portare valore aggiunto alla stagione e ai teatri stessi. Ho visto bene delle immagini in cui proprio dirigevi dei lavori all'interno delle... Ah, sì, quello sicuramente, insomma, io nasco in realtà come tecnico. Ah, quindi... ecco, vedi che ho avuto nelle prime edizioni era direzione tecnica e ovviamente poi dopo si fa di tutto, insomma, poi trovare foto in situazioni molto molto particolari è normale. È normale, insomma. Tra l'altro, dopo questa divagazione però molto attinente, direi di iniziare ad entrare nel programma. Allora, potremmo fare anche un last minute a teatro, perché potremmo dare il via con quella che è l'ufficialità, che sarà domani sabato 30 settembre alle ore 21 a Castelmaggiore al Teatro Biagi d'Antona. Di chi si tratta e di che si tratta, Alessandro? Allora, domani presentiamo appunto questa inaugurazione di stagione con quella che per me sarà una festa. E, i Sotterraneo ci portano un hyper talk show per Agora, ed è una versione modificata di quello che è il loro formato talk show, in cui i Sotterraneo invitano un ospite per parlare della sua storia, del suo percorso professionale, e per Agora saranno presenti alcuni degli artisti che poi ci saranno in stagione, quindi sarà una versione allargata, ci saranno tanti ospiti, ci saranno la compagnia dei Meno 20, ci saranno i Fanny Alexander e ci saranno i Kepler 452, e quindi sarà un insieme, una sorta di talk show con i soliti imprevisti che i Sotterraneo infilano nei loro spettacoli e nei loro lavori. Apre un All Star Game di artisti che sono esatto. Vicini, qua vedo Fanny Alexander, Kepler 452, insomma dei nomi che troviamo spesso in cartellone per quanto riguarda Agora. Beh, è un inizio che troverà spazio domani al Teatro Biagi d'Antona a Castelmaggiore alle ore 21. Le linee le abbiamo già definite, la continuità è stata portata e ovviamente anche la voglia di crescere e l'importanza di un teatro in queste sedi che, oltre alla bellezza del contenuto, danno anche, secondo me, una bellezza non da sottovalutare per quanto riguarda l'aspetto territoriale. Si procede, vedo, mi permetto e mi soffermo, parlavi di lampi scintille ma anche di stelle per quanto riguarda il 21 ottobre. Esatto, poi l'appuntamento successivo sarà con Federico Taddia, che porta in scena Margherita Hack, Stella tra le stelle, ed è appunto un racconto di Margherita Hack a 10 anni dalla sua scomparsa. E, insomma, Margherita Hack è stata una delle scienziate che ha dato lustro, insomma, all'Italia, e Federico Taddia ha lavorato con lei, ha avuto modo di conoscerla, no? Ha scritto due libri insieme, e quindi ci è sembrato importante in questa occasione ricordarla e appunto che sia anche di ispirazione, insomma. Certo, e abbiamo anche il teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento, abbiamo la sede teatrale in questo caso che ho citato in precedenza, anche se teatro non è a Castel d'Argile con la Bisana. Perché ho citato Galliera? Perché ufficialmente nella mia modesta carriera da atleta è stata l'ultima formazione cestistica in cui ho militato. Ci sarà la presenza di Agora anche a Galliera, immagino, Alessandro. Allora, esatto, sì, ma la Bisana, l'area dell'equilibrio ecologico della Bisana è appunto a Galliera, è tra Galliera e Pieve di Cento. Sì, è territorio di Galliera la Bisana. È territorio di Galliera, esatto. Ma esatto. Pensate, io che faccio tanto il super informato, nell'angolo Pieve di Cento, Galliera e Castel d'Argile, sì, insomma. Esatto, è il confine appunto con Galliera. Ufficialmente Galliera, ed è appunto quest'area di riequilibrio gestita da Sustenia e con il sostegno ovviamente dei comuni a cui fa riferimento, che è un'area appunto dove di riequilibrio, nel senso che gli animali vengono tutelati, ci sarà, a immagini ci sarà proprio il periodo della nidificazione, ed è vicino anche al cavo napoleonico, che è questa infrastruttura che durante qualche mese fa ci ha aiutato molto nel superare l'alluvione, nel gestire il grande flusso di acqua. E quindi lì avremo un appuntamento speciale con Teatrino Giullare, dedicato a Giuliano Scabbia, con due piccoli componimenti. Il primo è Lettere a un lupo. Giuliano Scabbia si rese conto che c'era un lupo che frequentava i sui paraggi della sua casa, e cominciò a scrivergli delle lettere, e quindi ci sarà un percorso in cui si troveranno queste lettere che Giuliano Scabbia scrisse a un lupo, verranno lette. Esatto, e il Teatrino Giullare le leggerà. E poi La tragedia di Roncisvalle con bestie, che è il racconto di una della battaglia di Roncisvalle vista dal punto, dallo sguardo degli animali, per cui gli animali osservano questi esseri umani che si massacrano e cercano di dare un senso a quello che per loro un senso non ha, e forse effettivamente hanno ragione loro. Penso di sì, direi proprio, insomma. Io intanto mi cospargo il capo di cenere per questa svista, però si parla veramente di centinaia di metri, non di più, immagino. Sì, è sempre lungo il fiume Reno. Sì, mi perdono in questo modo. Ricordo che è l'Unione dei Comuni Reno-Galliera. Stacchettino musicale e poi chiudiamo con il pubblico di Agora e un invito a teatro. Alessandro, riesci certo a stare 2 minuti ancora? Grazie, certo, certo. A tra poco. Stoned Again, Galliano. Ran the park, I run, oh, yeah. And when all sweat and smell, and I think I've almost done, I'm forced to cut short, oh, yeah. Oh, with yeah. The fitness claim as what? I'm stoned again. Oh. Smiley culture state, gold is weed, the Colombian. What? Well, the worst taste ever, that was the Cumbrian. William the kid, he was quick with his jaw. McCartney weren't, and the custom saw. Smoke chill, easy, make a sense of life. So is it Billy Graham then, or maybe his wife? Bangs in the studio, Pee-wee on the radio, Marshall while he dances, Patrick takes chance, Norman as he plays Brother M for 3 days, while Roy the Roach is flipping. Ian Botham smoked the ashes. Well, this time I tried to abstain, but Express. Yeah, lit roll tear, and then they crease to make each point a bit of a masterpiece. Yeah, when they get it safe, just about right, they go to the matches and set that sucker alive. Well, myself, I think all the perfect head should be in an international hole, the perfect head museum. But for now, be gone. Stress and strain, damn man. Oh, yeah, stoned again. Oh, now today is a shabba day, am I right? Grazie per la disponibilità ad Alessandro Amato per Agora. Alessandro, ci sei? Sì, sono qui. Ok, tu hai origini da uno di questi comuni, curiosità personale. Io vivo attualmente a Pieve di Cento. Ah, perfetto, sono più di così. Arrivato a Bologna per l'università. Ah, perfetto, allora sei informato sui fatti. Ecco la tua precisione sul territorio anche. Parliamo in conclusione del pubblico di Agora. Ovviamente l'invito, ho parlato della parte di pianura della nostra provincia, ma l'invito a tutte e a tutti, ovviamente. Questa è una banalità, però un invito a teatro, Alessandro. Certo, certo. appunto Agorà è, nonostante sia su 8 comuni, è appunto un teatro diffuso ed è un unico teatro. Entrare in uno qualsiasi dei teatri di Agorà è come entrare in un solo teatro, e quindi siamo anche contenti di riuscire a presentare spettacoli storici accanto a nuovi arrivi, nuove creazioni. Avremo un lavoro nuovissimo legato a un progetto sulla memoria del Novecento con i meno 20. Avremo 8 dei Chincaleri che torna a Bologna dopo 20 anni con un nuovo formato dato da nuovi danzatori, uno spettacolo storico. E quindi l'invito è a scoprire il programma, perché è ricchissimo, sono circa, certo, 30 appuntamenti, quindi non ci stanno in una sola diretta, ma tanto ci risentiremo. No, esattamente, bravo, no, infatti volevo chiudere dicendo che noi seguiremo ogni spettacolo l'ottava stagione di Agorà. Intanto allora abbiamo iniziato, e chi ben comincia già a metà dell'opera, ma il cammino, vi posso assicurare, è quanto mai denso di contenuto. L'appuntamento è domani, sabato 30 settembre alle ore 21, Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore, con questa sorta di All-Star Game per dare giustamente il via alla stagione. Che dire, io ti auguro il meglio, ti aspetto nuovamente in diretta, sei un ottimo co-conduttore, quindi per il venerdì di Radio Città Fujiko Agorà Teatro avremo modo di risentirci e avere anche poi i protagonisti dei singoli spettacoli per darne approfondimento. Grazie Alessandro e buon grazie lavoro. Buon lavoro. Grazie. Visto tante cose che ci sono, e una buona giornata. Ciao, a domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Let's Wade in the Water. Ricordiamo la bellissima versione di Marlena Shaw. Siamo arrivati al termine del ricco appuntamento in scena. Il Breakfast Club ritorna lunedì con la rassegna stampa culturale dei magazine. Weekend quasi, abbiamo l'appuntamento con Jet Live alle 11.30. Per adesso mi congedo a voi, i super mattiniere e super mattinieri, con un caloroso abbraccio, ringraziandovi per l'attenzione e augurandovi ovviamente un buonissimo weekend. E perché no, anzi, un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko, i nostri 103.1, dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.